Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Come riconosco l'attrice, l'artista, la fantasista, colei che è piena di speranze, solca le ferrovie d'Italia alla ricerca di una scrittura, un Pigmalione, un uomo che possa lanciarne nel rutilante mondo dello spettacolo, un posticino dove poter rappresentare la sua capacità di esprimersi artisticamente, dove poter cantare, recitare, tirar di scherma e fare di conto, proprio come Pinocchio. Beh, la leggiadra fanciulla di fronte a me, che sorride sempre, è una donna ridanciana. Viva la faccia delle donne ridanciane! Ride da sola, ride guardando gli altri, ride telefonando, ride leggendo, ride guardando me che la guardo ridere, e quindi non posso che farla parlare. Ah, donna di spettacolo. Sono una donna di spettacolo, sì. Che spettacolo fai? Allora, i porno li faccio solo in Ungheria. Ah, fai film attrice porno? Ma mica c'è niente di strano, basta dirlo. Perché in Ungheria vengo meglio? Perché in Ungheria praticamente ho scoperto dai servizi che in Ungheria quando fai film porno puoi farli anche visibili al pubblico, nel senso che se uno passa per strada e vede uno che sta girando un film porno non è una cosa tipo un oltraggio che t'arrestano. In Italia non si può fare, e quindi in Ungheria è proprio come il pane. Ah, ho capito qual è la trama. Ci sono delle donne che camminano per strada, arriva uno, la chiama con la telecamera, la porta a casa, fanno le peggio cose con la soggettiva telecamera primissimo piano sulle parti virili dell'uomo, e la donna se ne va via tranquilla e contenta. Sì. Sì, ma non so in quale angolo del paradiso esistano queste cose, non credo che sia la realtà. Dove stai andando? Io adesso sto andando a Viareggio. A Viareggio? Sì, sì. Ma lo prendi spesso il treno? Lo prendo sempre. Il treno è il mio strumento, no, è il mio mezzo preferito, perché sul treno io canti e rompi le palle a quelli vicino. Ovvio. Ma come te la cavi con i rapporti umani, visto che chiacchieri a macchinetta in questa maniera? Allora, coi rapporti umani, io sono una persona che pensa sempre il bene degli altri. Solare, vero? Solare, sì. È bello. Qualsiasi cosa voglia dire, che io non strano, ho mai capito cosa voglia dire. Una persona solare. Io non ho mai capito. No, io non penso di essere una persona solare, perché tra l'altro sono anche fotosensibile, quindi non prendo il sole perché sennò mi ustiono. Sei palliduccia, infatti, anche sono come palliduccia. Me. Io odio il sole. Io no, in realtà io non lo odio, ma è lui che non vuole molto bene a me, quindi mi devo proteggere. Allora inizio da tipo aprile a prendere gli integratori, quelli là per la melanina, protezione 50 già in macchina. Cioè, se io devo andare a comprare il pane, mi devo proteggere. E non è una cosa bella se sei di Gela, sei nata in una città di mare e che sei praticamente nordafricana. Cioè, io sono di fronte a Tripoli e Gela è più a sud di Tunisi, quindi d'estate a Gela la mia vita non è proprio facile. Diciamo che il trend ti favorisce, ti metterai un chador prima o poi e quindi risolvi il problema. Ma infatti secondo me quelle col chador hanno vinto. Cioè, ma sotto quello che succede è inimmaginabile, col caldo, pensa un po'. Vabbè, sintetici, sempre un tessuto sintetico. Sì, ma voglio dire, io sono... Sotto c'è una fabbrica di formaggio, ma che stai scherzando quando sta il sole? Mettiti un sacco di plastica addosso. Ma anche, magari il lino è fresco. Sì, ma il chador è di sintetico. Perché potrebbe essere di seta? Ma quelli che ho visto io, ma sai. Cioè, io che sono nata e cresciuta in Sicilia, in realtà sono nella mia prima parte di vita ero abituata a vedere donne col fazzoletto nero. Le tue nonne, le mie zie, ovvio, specialmente le vedove. Cioè, quando una donna rimaneva vedova, c'era un tot, c'era una specie di. 5 anni, 6 anni, esatto, di lutto. Esatto, una specie di tariffario, no? Perché tu dovevi tenere un tot di anni, che ne so, il nero totale. Total black con i capelli, con le maniche lunghe. Cioè, non potevi stare d'estate in Sicilia a 40 Gela. Gradi a Gela con le maniche corte e senza calze. Quindi io vedevo queste signore anziane ad agosto con maniche lunghe, collant, E il fazzoletto. Beh, se era un'anziana ci andava nella bara con Lutti. Una vedova di 30 anni poteva avere una speranza di mettersi un vestitino celeste prima o poi, ma... prima o poi, ma chi invece restava vedova, che ne so, a 60 anni, non se lo sarebbe mai più tolto quello. Vabbè, non c'era un risparmio. Non perdevi tempo a scegliere le tinte, gli abbinamenti. Ma non era solo quello. Nero c'era, su nero. Nero su nero, certo. Non, c'era anche un, come dire, un divieto di andare dal parrucchiere, di truccarsi, di guardare la TV. No, questo non è possibile. Ti giuro, mia nonna. Cioè, le vedove non guardavano la TV. No, allora, mia nonna è rimasta vedova, che io avevo 4 anni, e lei abitava da sola perché mio nonno è morto. Mia nonna a un certo punto, non so perché non c'era più la TV oppure quella vecchia si era rotta, va a vedere. Lei non comprava la TV perché era rimasta vedova e quindi non voleva, perché guardare la TV, quindi intrattenersi, era come dire vabbè. Un tradimento. Vabbè, sì, sono vedova, soffro, però intanto rido per questa cosa che mi fa ridere, no? Che quindi vuol dire distogliersi dal dolore. Però posso dirti una cosa, da un punto di vista egoisticamente, biecamente, schifosamente maschile, mi piacerebbe tanto una donna mi ricorda per tutta la vita quando sono morto. Bello. Cioè, magari a me non me ne importa niente, sto lì a farmi mangiare dei vermi, non mi cambia nulla. Però l'idea stessa che una ti rimane tutta la vita fedele alla tua idea. Ma infatti questa è brutto, cosa... che poi se va bene una persona vorresti che, anzi, dopo 30 secondi che sei morto, se ne trovasse un altro e fosse felice. Se veramente va bene una persona. Però è un altro tipo di rapporto. Cioè, mia nonna è stata, tra virgolette, prenotata da mio nonno quando aveva 14 anni. Quindi mia nonna a 14 anni fu vista, diciamo, da mio nonno, che disse: quella sarà la mia sposa. E l'ha comprata? No, non l'ha comprata. Non l'ha comprata, però da quel momento in poi, essendo prenotata, non aveva più la possibilità di essere libera e uscire, che ne so, con le amiche come prima, perché rischiava che potesse piacere a qualcun altro. Ma perché la prenotazione ha senso unico? Cioè, se io ti prenoto, tu non puoi dire nulla, sei prenotata. No, non è questo, però evidentemente anche a lei piaceva, ma a 14 anni non si potevano sposare, cioè non poteva sposarsi a 14 anni. Vabbè, a 18. Quindi praticamente lei dai 14 fino a quando si è sposata, adesso non ricordo che anni avesse, è rimasta, cioè è già stata fedele all'idea e poi è stata sposata con lui, ovviamente è stato l'unico uomo della sua vita, ovvio. Cioè, vabbè, questo non, nessuno potrà mai dirlo con certezza. Certo. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Anche mia madre comunque non ha avuto la stessa situazione, però anche mia madre ha avuto un matrimonio, come si diceva, portato. Hai presente Bollywood? Ma te perché non ti ha portato nessuno, scusa? Sei in giro per il mondo da Gela? Perché io sono ingombrante. A me una volta mi hanno detto, tu sei... non fastidiosa, però a volte capi. Non lo so, io non voglio passare per quella scomoda, però ho notato che spesso è più facile trovare un compagno se sei una persona un po', non dico mediocre, perché questa è una cosa arrogante da dire. No, ma è vero, ma è vero. E quindi a volte... gli uomini vogliono donne mediocri da su cui prevalere, e quindi, imbambolare, esatto. Mostrare pregi, dare adito alle loro presunte qualità, donne che li adorino, sì. Ah, quanto ti adoro. E quindi sai quante volte mi è stato detto, sei complessa, sei un sacco di lavoro. No, rompi le palle probabilmente, questo è il fatto. Vabbè, ma siccome ci io... metti di fronte alla nostra triste e squallida realtà quotidiana, per questo non trovo, ma perché tu cerchi un uomo? Non c'è niente di male. No, infatti non lo cerco, ma non mi dispiacerebbe averlo. Ti darebbe gusto, certo. Certo, perché mi piacerebbe avere un compagno di vita. Certo. Ma lo vuoi per tutta la vita o ti basta? Non ci credo più. Ah, perfetto. No, questo almeno. No, ci credevo, perché poi nella vita hai fasi, no? In cui pensi, tipo io quando ero piccola pensavo a 19 anni, mi fidanzo col principe e poi ci sposiamo, vabbè, no? Come Cenerentola. Poi man mano capisci che pensarlo, non è così. Pensarlo da piccola, bene. È bello. Chi lo pensa a 50 anni ancora magari ha dei problemi. Poi mi sono resa conto che è un po' più difficile, poi vabbè, frequenti delle persone, ti accorgi delle cose, delle dinamiche, poi fai l'università. Poi diciamo che l'Italia non aiuta la gente anche a sposarsi presto, non so se sei d'accordo su questa cosa. Vabbè, comunque. Sposarsi, bisogna trovare uno che ti sposa, già la condizione fondamentale, mi sembra difficile. No, io non penso più neanche di sposarmi e non vorrei farlo, perché penso, ieri parlavo con un mio amico del fatto che in Italia quando la gente divorzia, no? A volte, cioè, è come se... Io non trovo giusto, per esempio, che un uomo debba comunque mantenere il tenore di vita della ex moglie per com'era. Vabbè, lasciamo perdere il dopo, pensiamo il prima, la fase iniziale. Sì. Come ogni fanciulla in tenera età, te ancora pensi che possano esistere uomini con il target giusto per accollarsi, non so, una quasi quarantenne, non so quanti anni hai te. Vedi che l'ho superato i 40, bello. C'è più di 40 anni? Uh-huh. Vabbè, vabbè, se è il target giusto, una donna aspetta che ancora ci sia un uomo. Sì, ma non penso una cosa per tutta la vita. Penso che ormai sia la vita sia una serie di incontri che vanno bene, poi sono magari funzionali a quel momento della tua vita e poi magari succede qualcosa da una parte o dall'altra, quella cosa finisce e se finisce è meglio così. Cioè, non è più come... la generazione dei nostri genitori in cui la gente stava insieme solo perché doveva stare insieme per 30 anni e quindi genitori infelici che comunque portavano avanti questo matrimonio per i figli oppure perché pensavano che quello era l'unico uomo che avrebbero avuto, l'unica donna, un po' più difficile da considerare, ma anche l'ultimo uomo, dai. Però non sarà perché la nostra società è diventata più, non lo so, vabbè, più, diciamo, più ti, fast. Ti poni degli obiettivi di media felicità, non sì. di felicità per la vita. Sì, sì, media felicità mi piacerebbe. Che per la vita non può essere felicità. No. Questo no, lo sai, è un controsenso. Sì. Che a un certo punto dice, spero di avere una grande storia favolosa che mi prenda, mi rapisca. So che la storia finirà, ma quando finisce spero di averci comunque un poveraccio che mi sta vicino, mi fa da bastone la vecchiaia, mi porta a spasso, mi porta ai giardinetti, mi porta al cinema, mi mantiene se io ho bisogno di essere mantenuta. Insomma, qualcuno che mi tenga la mano fino al momento estremo, no? Sì, questo. Penso. No, questa cosa del che mi porti al giardinetto mi fa sentire, cioè mi fa pensare alla vecchiaia, che è una cosa che io non riesco a... Perché ancora non sei vecchia. Sì, lo so, però io ho un problema a proiettarmi verso il futuro. Io non riesco a... mi pare che il termine sia infuturare, tipo mancanza di infuturazione, mi pare che si dica. Ah, non c'è un progetto. Non è che non ho un progetto. Non pensi alla tua vita. Però non riesco a, come dire, proiettarmi da qui a un anno, da qui a 3 anni. Cioè, io conosco... Ma per fortuna. Io conosco gente che già a 20 anni diceva, allora, tra dai 20 e 25 faccio questo, poi faccio quello, poi mi sposo, poi mi laureo, poi faccio la casa, poi compro il... E io, Ma mica uno può sempre scegliere la vertigine, sai. Io sono molto vertigo. Sì, che ancora ti stanno sulle tette, ancora te lo puoi permettere. Verrà un giorno di guardare allo specchio e dire, ma chi mi piglia più? E allora comincerai a pensare anche a te, all'umarell che ti sta vicino. Diciamocelo chiaramente, no? Oddio, che tristezza. A me è così. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Beh, non mi hai detto, scusa, non mi hai parlato delle tue cose sentimentali. Le cose sentimentali. Io sto per scendere. Oddio, ok. Non volevo sapere, quello mi interessava. Allora, cioè, se una rompipalle come te ogni tanto qualcuno lo trova durante la vita. Io ti posso raccontare un aneddoto. Una volta ho dato una testata a un uomo. Gli hai spaccato la faccia? No, non gli ho spaccato una faccia, però gli ho dato una testata che nella mia vita non ho mai perché? Dato che a nessuno. Allora, io stavo con questo ragazzo, mi fa ridere, avevamo 50 anni. No, però comunque coetaneo, non si può dire ragazzo. Vabbè. Allora, stavamo insieme, sono stati insieme 4 anni. Durante questi 4 anni io ho percepito che ci fosse una ragazza con cui lui aveva rapporti di lavoro che aveva una simpatia per lui. E gli dicevo, ma secondo me è una cotta per te. E lui, no, guarda che è una cotta per te. Perché lo mettevi in guardia, scusa? No, nel senso che mi faceva sorridere, perché lei è molto più giovane, quindi lei l'aveva idealizzato. E no, io non riuscivo a capire soltanto perché lui si metteva nella difensiva e non diceva, sì, è vero. Cioè, se tu ti accorgi perché che... Perché se un uomo l'ammette, le prende una posizione. E se l'uomo le prende una posizione, con chi è una cotta non può fare quello che dice, lasciami in pace. Ma puoi anche dire, sì, è vero, me ne sono accorta, che poverina, cioè fine, cioè io comunque sono con te. Ma magari, guarda, posso dire una cosa, molte volte non ce ne accorgiamo. No, molte volte non ce ne accorgiamo, comunque fraintendiamo. Questa cosa mi irritava per la sua mancanza di obiettività e poi gli dicevo anche, ma guarda che io non è che ti sto accusando di qualcosa. Ma era un problema per te, per lui non era un problema. Lo so, ma non era neanche un'accusa a lui, non è che io lo accusavo di qualcosa. Ma perché andavi a cassare le palle su una cosa che non gliene importava? Mi stupiva il fatto che lei, che fosse comunque una persona con cui aveva rapporti professionali, gli scrivesse delle cose intime. Ti posso dire una cosa? E lui le diceva a me. Non gli piaceva, una donna che per lui non dava nessun interesse. Comunque sembrava una visionaria, una volta pure a pranzo. Ma tu insistevi dai corpo a sta cosa. Comunque una volta a pranzo pure coi miei, non lo so, è venuto fuori il suo nome e lui, vabbè, ma Cinzia è convinta che quella ragazza, ma poverina, ma una ragazzina. Una volta eravamo in viaggio, lui riceve un sms e io dico, chi è? Era lei. Era lei. Quindi? E io gli ho dato una testata. Cioè sono partita. Sì, ma lui che colpa aveva? Sono partita, boom. Ma che colpa aveva lui? No, perché era come dire, vedi? Ti scrivo pure mentre sai che sei in viaggio con me. Vabbè, quindi t'è andata di lusso. Cioè uno che semplicemente riceve innocentemente sms da altre persone. Però lui non me lo voleva dire, ha detto... Beh, grazie, gli avevi scassato le palle in una maniera terribile. Che... Però io quando gli ho dato la testata ero molto contenta. Lui mi ha guardato e mi ha detto: ma che aveva fatto di male? Ma mi hai dato una testata io, sì. Ma che aveva fatto di male? finalmente io avevo avuto, come dire, la soddisfazione che era vero che lei aveva questa cotta per ricevo lui. Comunque adesso stanno insieme. Si è messo insieme? Sì. Beh, perché tu l'hai mollato. No, lui mi ha mollato. Grazie, è il minimo, ma ti rendi conto? No, mica mi ha mollato per quella cosa. Ma no, perché gli hai fratturato le palle in una maniera bestiale. Cioè tu gli fai scena di gelosia per uno a cui lui non gliene importava. Ma non era una scena di gelosia, era guarda, ho ragione io. Perché a volte... Vabbè, basta, che no. Guarda, già mi annoia a me, pensa un po'. Ma annoia a me che non me ne importa. Non è una scena di gelosia, è come dire nel tribunale del ragione e torto. Io ho ragione, tu hai torto. Vabbè, senti, una che già è così pedante. Cioè, veramente, ma è un frantumamento. Sento il fragore delle mie palle si stanno frantumando e non c'entro nulla. Ti vedo nel treno, pensa questo. No, renditene conto, fatti un'autoanalisi su questo. Se tu rompi le palle così. Non era una rottura. Per una poveretta che ti manda. Ma sì, per voi ragione anche sul fatto che lui ammette quella di va dietro. Ma che gliene frega lui? Ma cosa gliene importava? Cosa gliene importava? È un prendere atto del fatto che questa è la realtà e la vediamo. Ma cosa gliene poteva fregare? A me, io sono un amante della verità. Ma va, sei un amante della rottura di palle. Assurdo, guarda, veramente. Comunque, adesso stanno insieme ansia. E lei ha detto: ma poi è possibile che tu eri l'unico a non capire che ero innamorata di te? Ma non gliene importava niente. Un uomo può anche capirlo. Se non gliene importa nulla, non gliene importa nulla. Zero. Un uomo, quando la donna non gli interessa, non gli interessa. Guarda, abbiamo dei meccanismi. In questo la natura con noi matrigne ma ci tutela. Se la donna non ci piace, ma non possiamo farci nulla, non ce ne importa. Ma nemmeno se ci ubriachiamo, se ci pompiamo. Ci fa schifo, non ci va, non può essere bellissima e soprattutto non ci piacciono le persone che si innamorano di noi, prima ancora che noi ci innamoriamo di loro, non glielo permettiamo, non permettiamo alle donne di essere innamorate di noi, se prima noi non ci innamoriamo di loro, questo ricordatelo. Così. Confermo. E confermi, vedi, c'ho qualche anno più di te. Ma un paio. No, che un paio, sì, magari. Un paio di decenni, tanto per cominciare, quindi capisci queste cose adesso. E poi andando avanti su questa strada, poi ti sei ricreduta e hai continuato a avere questo atteggiamento? No, no, alla fine poi la cosa è finita. Ma con lui, vabbè, poi dopo, ne avrai avuti altri dopo. Sì, però, no, non è questo, cioè non è che questo è il mio, come dire, la mia cifra in una storia. Sì, però è pesantina la tua cifra, questo ne rendi conto. Ma una donna pesante può essere anche bella, affascinante. Ma io non simpatica, sono pesante, sensuale. Io sono semplicemente la sincera. Pesantezza è qualcosa. La sincerità è la cosa più pesante che possa esistere. Quando una donna dice sono sincera, t'ha ammazzato. Sei già morto per quella donna. Non c'è la sincerità, o c'è o non c'è. La sincerità proclamata è un macigno che ti si appoggia addosso. Voglio essere giustificata di farti del male. Sono sincero, caro, guarda, veramente. Il sono sincero non si dice. Se sei sincero non c'è bisogno di dire sono sincero. Ma quindi consigli? Consigli, io mica do consigli, io distruggo. Ma io non mi sento per niente distrutta. Vabbè, distrutta. Ma rifletti un po' su un attimo che sì. Questo poveretto ha preso la testata, era totalmente innocente. Però è stato veramente divertente dargli la testata. È un gesto sadico. Perché lui non pensava veramente che l'avessi fatto con intenzione, invece io l'ho proprio fatto con intenzione. Vabbè, cara, guarda, se Dio vuole la mia stazione è vicina, la tua è molto lontana, riprendi a cantare e riprendi a sognare uomini che siano sempre coerenti a rispondere alle tue richieste di verità e di obiettività e di oggettività, e quindi troverai degli uomini cadaveri sicuramente nella tua vita. Ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non è mica detto che in treno tutte le persone passino il tempo nelle consuete maniere come guardare dal finestrino, leggere le riviste che lasciano le ferrovie appoggiate sul tavolinetto, che sono sempre le stesse, leggere i giornali che passano in prima classe e danno quale quotidiano vuole, poi non ne prende due e lo scambia con il vicino, oppure guardare il proprio smartphone in maniera compulsiva, oppure prendere il laptop, aprirlo e fare finta di fare grandi conti con grandi tabelle Excel, di gestire grandi aziende. Oppure poi alla fine quelli tristissimi, quei computer vecchi, antichi, antidiluviani, quelli che costano pochi euro, aprono e fanno il solitario di Windows, che è una delle cose più terribilmente tristi che possa esistere. Loro giocano con il solitario di Windows. No, ci sono anche altri passatempi. Alcuni passatempi cosiddetti passivi, alcuni passatempi attivi. I passatempi passivi sono mettersi le dita nel naso, fare sconcezze, schifezze, mangiare panini, togliersi le scarpe. I passatempi attivi sono osservare le persone che fanno queste schifezze o cose che disturbano la quiete dello scompartimento. Questa premessa perché la ragazza che ho davanti a me è esattamente appartenente a questa categoria, le osservatrici attive. Non le sfugge niente, prende, guarda, memorizza, giudica e fulmina. Ti ho visto osservatrice degli schifosi da scompartimento. Beh, succede insomma. Quale stavi guardando prima? Prima c'era questo ragazzo, siamo partiti all'alba col treno, e aveva, sai, queste cuffie enormi che coprono tutte le orecchie. Quelle vanno di moda adesso però. Sì, sì, che isolano molto l'ascolto per chi sta ascoltando, ma intorno ovviamente sono una cassa di risonanza. Sì, sembra una discoteca. Assolutamente sì. Ed era questo ragazzo, secondo me anche più giovane di me, quindi insomma stiamo parlando di uno degli anni 80. Un ventenne? No, 30 e qualcosa. E ha ascoltato dall'alba, ti giuro, sarà ascoltato boh 4-5 volte di seguito nord sud ovest est, sempre la stessa cosa, sempre la stessa degli 883. Gli anni l'avrà mandato, non lo so, 5-6 volte di seguito. A un certo punto canticchiavo anche, così presa dall'entusiasmo. Ma lui non si rendeva conto di inquinare acusticamente tutti gli altri? No. Non si rendeva conto, ma soprattutto non si rendeva conto del fatto che quando l'ho visto, sono entrata in treno, era anche carino, insomma. Ma era anni 90 anche come era vestito? Era, sì, sì, uno, diciamo, uno papabile a cui potevo offrire un caffè, diciamo così. E sì, ma un po' retro però. Un po' retro naturalmente. Perché sì, ancora non è quel vintage che va di moda, niente. No, non siamo ancora, gli anni 90 non sono ancora. Affonda in una zona buia che può essere solo per sfiga che uno la frequenta. Beh, funziona solo per le, diciamo, per la moda di H&M, oppure per quelle serate a tema sulla musica anni 90, dove un po' nostalgicamente si mette su Corona o questa musica dance. Sì, ma ancora, chissà perché il decennio degli anni 90 ancora non è diventato epico. Lo sono gli anni 80, lo sono gli anni 70. Ma gli anni 90 no? Beh, erano molto low profile negli anni 80, si andava in giro, io poi li ho vissuti un po' marginalmente, però mi ricordo c'erano le spalline, c'era la pelle, c'era il look dark, c'era Madonna. Gli anni 90 erano quelli di... Non hanno prodotto niente. Forse era il cavallo basso. L'attesa della fine del millennio, chissà che... Andavano gli uomini bassi, il cavallo basso, i capelli bassi. Sai, non mi ricordo come il cavallo basso. Sì, non ti ricordi? Quelli di Beverly Hills erano più bassi delle ragazze, e avevano questi jeans che sembrava sempre si fossero fatti un po' la cacca addosso. Ah, calati giù. Sì. Ma che ancora li portano, nelle periferie ancora vanno. Beh, quello sì, ma c'è lo stile rap. Però insomma anche per noi un po' borghesucci aveva sdoganato questo cavallo basso col culo piatto, poi ovviamente perché era tutto un po' così, poi seguiva tutto, si Quanti anni dopo tutto. È venuto il perizoma che usciva dal pantalone con culo basso per le donne e anche per gli uomini con l'elastico Calvin Klein? Quello è arrivato a cavallo degli anni 2010. Sì. Perché poi si sono cominciate a stringere le linee, si è abbassata la vita dei pantaloni, e quindi poi tutto quello che era in più usciva. Tuttora è basso il pantalone? Beh, devo dire sta tornando un po' la vita alta, che non è male. Io non so adesso quanti anni tu abbia, tu non ti ricordi che poi ci fu negli anni 70, metà anni 70, i pantaloni che c'erano quasi, sembrano quasi un costume da torero, io me li ricordo, partivano dallo sterno praticamente, da uomo. Però erano orrendi. Però da donna sono utili, se posso dirlo, perché negli anni 30 contengono la panza. Anche le donne burrose non avevano quel rotolino, quel doppio rotolino che invece noi abbiamo con la vita bassa, perché il corpo si modella anche un po' sugli abiti che porti. Ma allora mi ricordo erano ridicoli, ma dei mariacci, poi erano larghissimi, le gambe erano larghissime. In fondo copriva tutta la scarpa, un risvoltone che copriva la scarpa. È vero, le forme a palazzo, elefante. Ma anche da uomo, terribile. Io ho delle foto mie di un matrimonio di mio zio, che ne so, con una giacchettina attillata, con i reve larghissimi, capito? Strettini. E sotto c'erano questi pantaloni che sembravano un pigiama, larghissimi, che coprivano le scarpe, e ne ero tanto fiero. Con le pants, no, con le pants, con la riga della stirata davanti. Ma larghi così, se guardi, quando vedi vecchi film, anche quelli più osceni, quelli dei poliziotti, quelli mi piacciono tanto, vedi la gente come era vestita. Gli uomini erano tisici, secchi secchi, senza torace. Vero, a qualcuno si faceva addirittura prescrivere la tenia per dimagrire. Ma gli uomini non erano secchi in natura. L'uomo prestante è venuto dopo il 2000, diciamo. Ma c'è sempre un po' questa dicotomia, perché anche adesso se guardi i modelli o alcuni cantanti che piacciono alle ragazzine, insomma, dei modelli maschili adesso. Sì, ma ancora l'uomo, dai, l'uomo un po' palestrato ancora tira, lo vedi, dal medico estetista che si fa il muscoletto per far più iniezioni in faccia ai suoi clienti, fino a il quattone che frequenta gli aperitivi per tardone, c'è sempre un po' di muscoletto, no? Sì, dipende poi qual è il tuo modello di mascolinità. Qual se è? Preferisci un uomo che ti fa meno paura, quindi un pochino più effeminato, più così asciutto. L'uomo muscoloso fa paura, è tutto anabolizzante e pesi, che paura fa? Beh, però insomma, la massa fisica è importante. Cioè, paura che ti meni di questi tempi. Ma guarda che quelli che menano sono sempre signori impeccabili. Io so di uno che menava la moglie, insospettabile, che lo conoscevo bene, lo dissero poi, sembrava un efebo, non c'aveva un filo di barba, biondissimo, sguardo perso, sembravi un giovane poeta. Mi ha detto la tonfava come una bestia. Confermo, anche sì. Gli uomini che ho conosciuto io, che poi alzavano le mani, t'ammenato, erano insospettati. Sì, sì, sì. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Ma perché le donne sopportano? No, ho avuto amiche menate per tanto tempo, la fidanzata diceva ma lo amavo, pensavo, poi dopo faceva la pace, diceva scusa, perdono, si beccavano le botte. Devo dire, qualche volta succede che hai voglia di una storia conflittuale e questo conflitto fa molta parte, alimenta tanto anche, sì, ma uno, parole, ti dà l'impressione che sia una storia profonda, perché vive tanto sul conflitto. Beh, ma il conflitto si può anche esaurire su un conflitto verbale lancinante, possono far malissimo le parole senza lasciare segni. Questo assolutamente, quando arrivano civile. Le mani, di solito c'è un percorso di coercizione e manipolazione molto forte, per cui c'è un lavoro sulla tua autostima e poi a un certo punto arrivi davvero a pensare che un po' te le meriti e devi fare un grosso lavoro. Qui la donna sta zitta, che pensa in fondo ha fatto qualcosa per meritarsi le botte. Beh sì, tra l'altro parlandone anche con le amiche ho scoperto che tutte abbiamo avuto un uomo che ci ha messo le mani addosso e tutte eravamo così in un momento di autostima bassissima in cui eravamo convinte di meritarcele. Perché lui poi ti diceva, cioè sei tu che mi riduci così, sei tu che mi fai fare questa cosa. È colpa tua. Sì, colpa tua. Oppure avevano mille altre giustificazioni che gli arrivavano. Confesso, ho avuto l'istinto di tagliare a pezzi le donne e farle scomparire, ma di menarle no, perché è gioco facile. Molte volte una donna ti fa arrabbiare tanto, però affini degli strumenti di difesa verbale, perché quello che più ammazza un uomo sono quelle cose sottili, velenose, che ti colpiscono alle spalle, una mezza frase, un non detto, uno sguardo, una trascuratezza nel momento giusto, un farti notare una tua debolezza. Io trovo molto più violento questo, capito? Controbattere con queste armi, se vuoi sadicamente vendicarti di una persona, puoi far benissimo con parole o missioni, come si diceva una volta, peccati della carne. Devi essere capace, devi essere in profonda confidenza. E poi io non ne farei una questione di genere, nel senso che no, io infatti parlo difesa, sì. Gli uomini violenti nella coppia avrebbero voglia di essere violenti, non solo gli uomini, le persone violente all'interno della coppia e coercitive avrebbero voglia di esserlo anche col mondo esterno. Beh, guarda esterno. Che è un bel salto alzare le mani, passare dalla violenza verbale, cioè a litigare profondamente, dirsi cose che fanno male, mettere le mani addosso, noi è un discrimine fortissimo, non è un passaggio automatico. Sì. Non è un passaggio automatico. Beh, per me succedeva che all'inizio erano pugni tirati contro il muro e poi a un certo punto non era più il muro. Al posto del muro c'eri te. Ma pugni veri, proprio come pugni che si danno fra uomini. Schiaffi, pugni, appesa al muro con le mani intorno alla gola. E non c'avevi paura? Sì. Ma tu le restituivi, cercavi oppure? In realtà a un certo punto, quando arrivavamo a quel livello lì, ero quella che poi abbassava per forza l'energia del conflitto, perché altrimenti quindi avremmo finito per ammazzarci. Cosa migliore è star fermi, immobili, e non reagire. Sì, sì. Se vero che poi chiedono sempre scusa come cagnolini. Ah sì, sì, spesso sì. Poi c'è quella scena terribile in cui piangono, no? Perché t'hanno menato. Sì, sì. Vabbè, si non può piangere, insomma, perché un uomo non può piangere. A me è capitato un paio di volte nella vita. Ma per nervi, non ce la fai più. Non sai che fare, ti metti a piangere, anche se tu ridi. Ma certo, no, quello assolutamente succede, liberato. Dai. Sì, ecco, però menare, perché non ce la fai. Ma non dopo aver menato, no, dopo aver menato, l'unica cosa che puoi fare è suicidarti, basta, fine, che altro devi fare? Poi ha menato una donna che non può reagire. Questo. Ma reagire si può sempre reagire, e comunque alla fine ho reagito con l'unica reazione possibile, cioè la porta è chiusa e fuori dalla mia vita. Questa è l'unica reazione. Però uno che ti mena è un legame difficile, perché c'è sempre paura di incontrarlo per strada. Tu chiudi un legame con uno che non ami più, pazienza, lo incontri, tutto a più, ti volti dall'altra parte. Uno che ti mena, io avrei sempre paura e comunque gli viene i 5 minuti. Beh, la cosa peggiore per quanto mi riguarda è stato dover dividere un po' gli amici. Nel senso che poi a un certo punto lui cosa fa per riavvicinarsi? Cerca di passare attraverso le persone. E gli amici dicono che è colpa tua, che sei mitomane. Gli amici sono preda di un conflitto, sì, ma più che altro sono di fronte a un cortocircuito di cui non si rendono conto, per cui quando dicono vabbè però nei litigi magari uno schiaffone può volare. Che è una cazzata, non è vero. Esattamente, è vero. E tu gli dici vabbè ma quindi tu picchi la tua fidanzata, ah no non lo farai mai, no, allora sono io che me lo merito, no non è vero, e allora... Lo fanno, in effetti tutti alzano un po' le mani. Ma spero per le amiche che conosco di no. E no, insomma, direi che nella percentuale degli uomini che ho incontrato. Ma io la voce uno schiaffo ci sta, lo sento dire spesso. Ma uno schiaffo può scappare. Non lo so, no, a me non è un passaggio grosso. Sì. Allora, siamo umani. La tentazione viene, è inutile dirlo. Quando ma una persona, come coi figli. Ti fa molto. Una persona senti che non c'ha più parole, la appiccicheresti al muro. Però sei civilizzato in quanto questo. È una cosa che ti passa per la testa, ma non arriva a un gesto in sé. Certo. Perché quelli che dicono sono immune da ogni... Non è vero, sei anestetizzato, non puoi essere immune da una reazione violenta verso chi in quel momento te la scatena. Poi può essere patologica, può essere banalmente nella norma, però è così. Ma dalla cuffietta siamo passati a questo, pensa un po'. Evidentemente, però sai... E gli 883 risvegliano dei sentimenti abbastanza sanguigni, va detto. Il treno va. È certo che al momento della audiolettera sulla storia amorosa mi rendo conto che mi sto prendendo un grande carico, come se già non ne avessi abbastanza nella mia vita, nella mia natura, nel mio impegno personale. Il grosso onere è quello di essere filtro delle angustie altrui, delle storie altrui, dei fallimenti altrui, delle speranze altrui, come se io non potessi averne, come io se fossi neutro, come io fossi impassibile, come se fossi una sorta di sibilla cumana che deve soltanto esprimere un giudizio, come se le parole, i racconti, le frasi, le esperienze non attraversassero anche la mia carne e non ricordassero anche cose da me vissute. Confesso, anche io ho vissuto e scusatemi la citazione orrenda. Beh, sentiamo un po' questa ragazza, che poi quando mi dicono ragazza non so bene, potrebbe avere un'età indefinita, dai 30 ai 50, sempre ragazze sono quelle che mi chiamano, sempre con lo stesso fantastico, cristallino istinto di dire ah che bello, voglio innamorarmi, voglio una storia, e poi vengono da me con i cocci rotti in mano. Caro Gianluca, non amo essere prolissa né ho voglia di scriverti troppi particolari sulla mia situazione. Sono passati ormai 8 mesi più o meno da quando ho chiuso una storia durata 1 anno e mezzo con un ragazzo che abita a 400 chilometri da me. La storia a distanza può avere risvolti esaltanti, tutti ci siamo passati, credo. Quando ci si vede sembra di essere sempre in vacanza e non c'è tempo per il quotidiano spicciolo e triste, ma è anche complicata da mantenere. Comincia la routine anche nella distanza, e così ecco le telefonate della sera, prima o durante la cena, i reciproci sfoghi sugli impegni lavorativi di entrambi, i colleghi che ti conoscono meglio del tuo partner, insomma, tutta una serie di cose che ha finito per vincere, rendendo sempre meno convinti i nostri incontri. E così la nostra storia si è via via sfilacciata, senza traumi o litigi. Non ci siamo lasciati male e abbiamo deciso di rimanere in contatto, impegnandoci ad essere comunque l'uno per l'altra un contatto e un riferimento. Qualche telefonata c'è stata, gli auguri per il compleanno, ogni tanto un messaggio, ma niente di più. È passata l'estate, in cui entrambi siamo andati in vacanza. Abbiamo viaggiato ovviamente ognuno per conto suo. Ma a settembre, non so nemmeno come e perché, abbiamo iniziato a sentirci sempre più spesso. Passando dal buongiorno ogni mattina a diversi messaggi più volte al giorno su Facebook o WhatsApp. Poi messaggi vocali da parte sua per raccontarmi una sciocchezza, anche una cosa buffa che vedeva. E poi siamo arrivati alle telefonate ogni giorno. Cara fanciulla, non capisco la tua meraviglia, perché storia fra voi non c'è stata. Siete due che si sono incontrati, hanno chattato, si sono interessati, si sono scambiati la pelle, come si dice tristemente, ma anche crudamente, realisticamente alle mie parti, e poi basta, alla fine ci si stufa, ci si stanca. se non c'è attesa, se non c'è fuga comune, se non c'è qualcuno che cerca nell'altro qualcosa che non ha. Naturalmente poi la storia finisce, si esaurisce, lo scambio della pelle è a tempo determinato, la pelle dopo essersi scambiata si omogenizza e la tua pelle è uguale alla mia pelle, quindi che ci faccio della tua pelle, so la mia pelle che mi dà la stessa sensazione e quindi ognuno se ne ritorna per la sua strada. Naturalmente vi siete rincontrati, vi siete risentiti, avevate entrambi, e questo non me lo puoi nascondere, dei momenti di vuoto, perché se le vostre vite fossero emotivamente, sensualmente, emozionalmente riempite, ma chi se ne fregava ad andarsi a prendere la minestrina riscaldata? Quindi ognuno di voi ha avuto un buon conto e un buon profitto nel riprendersi la minestrina riscaldata. Vi siete fatti compagnia mentre magari leccavate a vicenda le reciproche ferite e avete scoperto che in fondo è bello parlarsi, uccisa, tolta, ammazzata, annullata questa bestiale tensione che ci si vede perché ci si deve appunto scambiare la pelle. È certo che poi ci si può anche parlare dei nuovi amori, delle fidanzate, dei fidanzati, quando non c'è più quel senso di gelosia che alimenta comunque una passione. Morta la gelosia, un uomo e una donna, dopo che hanno fatto, possono dirsi qualunque cosa e sono molto più che amici. Sono amici, tolta quella sorta di ipocrita pregiudiziale che io posso essere amico di una donna, ma soltanto se questa donna mi fa carnalmente ribrezzo, se no, se altrimenti soltanto io covo qualche tiepida attesa, qualche sommessa speranza nei suoi confronti, mai potrò esserle amico. E il bello è che non ci sono mai stati accenni alla passata storia, mai tentativi di riallacciare un rapporto o frasi ambigue. E la cosa che mi lascia ogni giorno più perplessa è che parliamo molto più adesso di quando stavamo insieme. Mi racconta cose di cui non mi aveva mai parlato, per esempio mi parla delle sue ex fidanzate. Io ero sempre curiosa e gli chiedevo ogni tanto di qualcuna che magari nominava, ma lui era sempre sfuggente e chiudeva il discorso anche irritato. Mi racconta di una ragazza che ha conosciuto da poco e che gli piace. Mi chiede cosa ne penso, vuole il mio parere. E per esempio l'altra sera mi ha chiesto come vestirsi per uscirci. Anche io esco con altri ragazzi, glielo racconto e spesso ridiamo insieme delle persone che incontriamo. Si è creata una complicità che non c'era mai stata prima. E allora mi chiedo e ti chiedo, è amicizia questa? Io ho sempre pensato che non potesse esistere amicizia tra un uomo e una donna, e meno che mai con un ex. E se non è amicizia, cos'è? E perché non c'era questa complicità quando stavamo insieme? Cosa è cambiato? O meglio, esistono allora diversi tipi di complicità? Tra l'altro, penso che se lui dovesse avere un'altra storia, non è detto che la nostra complicità potrebbe andare bene a chi starà con lui. E in quel caso, dovremmo lasciarci di nuovo. Francamente sono un po' indecisa sul da farsi e non so quanto ci sia di naturale in questo nostro rapporto né quanto possa durare. Tu cosa ne pensi? Grazie per la risposta. Quanto questo vostro rapporto potrà durare? Ma che ti importa? È un rapporto che rappresenta qualcosa per te? Se sì, allora ti stai prendendo in giro. Se sì, tu te lo tieni buono, tu accetti di ascoltare le sue storie, tu racconti a lui le sue storie, perché comunque fai qualcosa per tenertelo vicino. O forse lui lo fa per te e tu non lo sai, è tutta una scusa. I racconti magari sono allucinati, immaginati, sceneggiati, amplificati. Nessuno ha storie probabilmente e vi raccontate storie per avere un nesso comune, un terreno comune, una scusa per potervi parlare. Oppure siete due in caccia, in attesa. Siete in quel periodo in cui uno butta le reti, getta l'amo e aspetta. Quando qualcuno di voi farà boccare il suo pesce, probabilmente non avrà più voglia di sentire l'altro. Ma che faremo? Dovremo lasciarci? No, ma semplicemente non avrete più voglia di sentirvi. O meglio, se avrete ancora voglia di sentirvi, dovrete alimentare una parte di voi che nella tua lettera non traspare. L'aspetto fisico, carnale, passionale, me l'hai appena accennato, come se nulla fosse di importante nella vostra storia. Quindi se non avete nemmeno quello che in fondo vi fa venire voglia di vedervi, ma vi vedrete come ci si vede fra amici lontani, fra ex colleghi, parlerete l'uno dell'altro. Se voi non rappresenterete un problema nei vostri futuri rapporti, insomma, se non vi sentirete in colpa quando state con un'altra persona, legati da un legame, per il fatto che mantenete l'amico, l'amico sarà un amico, sarà acqua fresca, non varrà niente. Se sentirete soltanto un filo di senso di colpa per sentirvi quando state con qualcun altro, beh, quel qualcun altro dovrà cominciare a temere, e temere anche molto.